Allora, eccoci in diretta Radio Onda Rossa. Siamo al telefono con una compagna che si trova a Nardò. Katia, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, alla masseria Boncuri in provincia di Nardò siamo ormai al quinto giorno di sciopero dei migranti, dei lavoratori stagionali che si occupano della raccolta dei pomodori. Condizioni da fame, salari peggio ancora. Chiaramente, insomma, una situazione che tra l'altro si riverbera, insomma, e che si prolunga da tanti anni in quelle terre, ma non solo in provincia di Nardò, un po' in tutto il Leccese, ma anche nelle campagne del Foggiano. Quindi una situazione abbastanza larga in cui, primo fattore di novità quest'anno, c'è questa irruzione finalmente della lotta auto-organizzata da parte dei lavoratori che sono scesi in sciopero. La prima cosa che ti chiedo, Katia, come sta andando? Chiaramente non è facile organizzare per i lavoratori organizzarsi, cedere al ricatto è chiaramente sempre purtroppo dietro l'angolo, e quindi ti chiediamo anche se i lavoratori sentono manforte e hanno la fiducia di andare avanti. Guarda, hanno enorme fiducia nell'andare avanti, loro reggono tranquillamente, oggi si è ridotto notevolmente il numero di chi ha scelto invece di andare a lavorare, cioè in tutto il campo solo 8 sono andati a lavorare. Tra l'altro, voglio dire, da ieri della solidarietà che fanno qui in servizio di volontariato nel campo hanno distribuito del cibo, perché comunque non lavorando, insomma, non hanno i soldi poi per auto-organizzarsi o comunque per comprarsi delle cose, per cui, considerato che è iniziato anche il Ramadan, per loro, insomma, sono anche più sereni. Ci sono una serie di sostegni, hanno chiesto un tavolo in prefettura. Questa notte hanno arrestato uno dei caporali che loro avevano denunciato. Hanno chiesto, diciamo, la presenza quasi perenne la notte e la mattina presto, che sono i momenti, insomma, in cui i caporali vengono a raccogliere le persone per lavorare, la presenza della polizia, per cui sono spaventati, però anche decisi comunque a continuare. È insolito, tra l'altro, la cosa incredibile che sono, insomma, hanno eletto un rappresentante per ogni comunità e perfettamente in sintonia, insomma, stanno elaborando delle strategie di resistenza. Bene, Certo, quindi chiedono a gran forza un tavolo prefettizio perché comunque hanno bisogno di essere, cioè di una controparte istituzionale, delle aziende, del prefetto che si faccia garante, insomma, di questa loro denuncia. certo, notizie comunque tutto sommato positive quelle che ci dai. È chiaro, insomma, che da questo punto di vista è essenziale trovare, diciamo, anche il momento della trattativa con la controparte, anche perché, e anche qui sta il fattore di novità, insomma, i migranti, i lavoratori hanno delle richieste ben precise anche di carattere salariale, insomma, cioè siamo arrivati Hanno delle richieste finalmente al precise di fatto. carattere salariale, ma intanto, insomma, una paga decente, perché loro prendono 3 euro, 3,50 euro a cassone. Consideri che, cioè, un esperto lavoratore, diciamo un bracciante agricolo esperto, in tutta una giornata intera lavorativa riesce a riempire al massimo 3 cassoni, e va da sé che 9 euro, insomma, di guadagno è troppo poco, quindi rivendicano, diciamo, una paga adeguata, una contrattazione diretta con le aziende, dei contratti veri e propri che non hanno, perché per ora hanno degli ingaggi che sembrano essere falsi, e quindi chiedono sia l'intervento, diciamo, dello Stato a difesa di queste denunce che loro fanno di sfruttamento, di illegalità, da un lato, e dall'altro rivendicano nei confronti delle aziende un salario, diciamo, garantito, un salario decente. Certamente, insomma, è chiaro da questo punto di vista che appunto il salario già magro non gli consente di sopravvivere. A questo va aggiunto, e questo, insomma, non va mai dimenticato e costituisce l'altra parte importante poi delle rivendicazioni e della lotta di questi lavoratori, c'è chi taglieggia sul loro salario, perché, insomma, solo per il fatto di intervenire in qualità di intermediatori e solo e soltanto per il trasporto, i caporali, insomma, come dire, beh, il caporale prende il pizzo, a fronte, no? dei loro 3 euro, 3,50 euro, 10 euro per ogni cassone per ciascuno, ecco. In più da ciascuno di loro pretende 3 euro a testa per la benzina più l'acquisto del cibo e dell'acqua. Quindi insomma è veramente un taglieggiamento in grande stile, addirittura addirittura insomma l'obbligo, c'è l'obbligo a quanto ci stai dicendo anche di servirsi da loro per ciò che riguarda il sostentamento alimentare giornaliero. Beh, perché nei campi insomma l'acqua poi, cioè, non ci sono strutture che vendono qualcosa pur volendo, per chiaro. Cui è il caporale che pensa, diciamo, al cibo, al panino, all'acqua che serve, perché le persone insomma bisogna bere, certo. Quindi insomma, va da sé che hanno bisogno necessariamente di lui. Però allora, cioè, la figura del caporale non è una figura nuova in agricoltura, per certo. Certi versi è una figura scontata in molte delle colture del meridione, però ha un ruolo spesso differente, cioè di coordinamento, cioè, ad esempio nelle angurie anche ci sono i caporali, però da loro sono più tollerati perché il caporale prende leggermente in più, lavora con loro, si occupa del trasporto, del cibo, dell'acqua e quindi diciamo viene da sé che insomma per questo acquisto anche di quello che serve possa prendere qualcosa in più, ma quel qualcosa in più non sono i 10 euro del pomodoro, insomma, che invece è uno. Certo, certo. C'è un furto. Beh, è chiaro. Hai da detto... un lato, dall'altro proprio loro rivendicano un'autonomia sindacale, c'è un rapporto diretto con le aziende, perché di fatto la maggior parte di loro, se non la quasi totalità, non sa per chi lavora. Ha preteso all'inizio una serie di contratti che però risulterebbero essere falsi perché mancano di registrazione, per cui alla fine sono dei fogli insomma in cui ci sono i loro nomi ma che non hanno una validità ai fini dell'INPS, e quindi lamentano il fatto, diciamo, che a garanzia dell'inizio anche di questo lavoro gli era stata, diciamo, promessa una maggiore presenza, no? Dell'ufficio provinciale del lavoro, una garanzia, come dire, di un lavoro reale, concreto. Quindi sostanzialmente è lavoro nero, mal pagato e con sfruttamenti vari annessi. Tra quindi, l'altro, insomma, ragazzi, ecco. Insomma, che sono leader della protesta, comunque più che leader, diciamo, i rappresentanti con la comunità che è dato, sono comunque soggetti a minacce, insomma c'è una situazione comunque non facile da reggere. Immaginiamo, hai detto bene tu prima, insomma il caporalato è una realtà scontata, oserei dire dominante nelle campagne del Mezzogiorno, scontata al punto che quasi insomma la si accetta per quello che è, insomma, quindi purtroppo... Ci sono figure diverse di caporalato, c'è un caporalato accettato nella misura in cui è uno dei lavoratori che si occupa, come dire, di coordinare gli altri in qualche modo e di seguire dei rapporti al posto loro, ma che prende 2, 3 euro, 5 euro di più in assoluto nella giornata. E ci sono dei caporali non tollerati perché, diciamo, le figure classiche, quelle di cui ti ho parlato prima, che invece insomma sono degli sfruttatori che meno si vedono, che mandano delle loro persone, insomma un po' anche al limite, non un po', molto al limite della legalità, insomma, già come personaggi. Certo. Senti Katia, dunque c'è un elemento su cui crediamo occorre fare un po' di chiarezza, non tanto per motivi polemici, ma perché è giusto contrassegnare per il giusto verso, insomma, qual è lo spirito che anima i lavoratori stagionali che si stanno producendo in questa grande e importante battaglia, e cioè la stanno conducendo assecondando un principio di auto-organizzazione. Da questo punto di vista, non tutti i giornali invece danno conto di questa realtà nuova. Ad esempio, sul Corriere del Mezzogiorno, un articolo che è uscito un paio di giorni fa, immigrazione, sciopero contro i caporali, da 2 giorni ferma la raccolta dei pomodori, viene scritto che la protesta è nata subito dopo l'assemblea sindacale tenutasi presso la masseria con la FLAI CGIL sabato sera, a cui avrebbe partecipato anche la CGIL provinciale di Lecce. Insomma, dalla descrizione che ne fa il Corriere del Mezzogiorno sembra quasi che senza l'intervento del sindacato la protesta non sarebbe mai stata accesa, non sarebbe mai nata. Ci risulta invece che la stessa sia nata proprio per un'accelerazione, insomma, per la diretta volontà, l'esplicita volontà dei lavoratori stessi. Allora, io ti sento malissimo, mi sembra di intuire che mi stai ponendo, diciamo, una domanda sulla presenza della CGIL, del sindacato, esatto. Eccetera. E i lavoratori qui si sono auto-organizzati, hanno iniziato la loro protesta da soli. Poi fortunatamente, insomma, la CGIL è stata presente anche durante le loro assemblee, che però sono auto-organizzate. Considera che, poiché provengono da comunità differenti, non tutti parlano la stessa lingua, per cui ognuno di questi rappresentanti, diciamo, elaborano insieme una sorta, chiamiamola così, di piattaforma, e poi ciascuno nella sua lingua la riporta agli altri, e c'è un'interazione di assemblea. La CGIL si è fatta promotrice, come dire, per conto, cioè a partire dalle richieste che sono pervenute dall'assemblea, di intavolare, cioè, come dire, di chiedere al prefetto formalmente di convocare un tavolo prefettizio. Però, diciamo, non è presente qui sul campo stabilmente, come si auspicherebbe, insomma, non solo dalla CGIL ma anche dagli altri sindacati. Insomma, io vedo grandi assenze. È stata presente nelle assemblee dei ragazzi e, come dire, garante del fatto che sosterrà la loro protesta, la loro battaglia, insomma, in seno al tavolo prefettizio, qualora lo convocassero. So che anche il settore agricoltura nazionale ha fatto la stessa richiesta, sentendo appunto della situazione, lì ha chiesto un tavolo prefettizio per poter dirimere la questione. Dico da sé che una questione così articolata comporta, insomma, l'impegno di più soggetti, cioè le aziende, il prefetto, ma anche la finanza, insomma, varie figure in campo, la provincia, la regione, e quindi soltanto il prefetto, diciamo, è il luogo dove formalmente questi enti, queste istituzioni possono dialogare, compresi i ragazzi, naturalmente, compresi i braccianti, al fine di trovare delle strategie possibili, se non, diciamo, quantomeno nel breve e nel lungo periodo. Va bene, la novità, diciamo, rispetto alle altre situazioni di emergenza, di disagi, perché denunce, voglio dire, ne sono state fatte tantissime negli anni, anche in altre zone d'Italia. Io vedo che la novità qui sta in fatto soltanto nella determinazione, nell'auto-organizzazione, nella coesione anche fra comunità diverse, fondamentalmente in antagonismo per certi versi lavorativi, no? Si lavora un piccolo, lavora un altro. C'è questa, come dire, interettività, diciamo, questa coesione interetnica nel denunciare una situazione che non è terribile, l'hanno fatto da soli, con il sostegno di molti, a partire dalle brigate della solidarietà che sono qui, fanno volontariato al campo, dell'associazione che gestisce il campo, della CGIL che poi è arrivata, insomma. Però, diciamo, l'elemento nuovo forse è proprio questo, una decisione autonoma, fatta al di là delle barriere linguistiche, come dire, decisa da sé. Bene, bene, insomma, chiaramente ci descrivi. Poi il loro appello ai sindacati è, cioè, il loro appello è per tutti, cioè, voglio dire, comunque abbia la forza e il potere, tra virgolette, il desiderio di dare sostegno, l'appello è dateci una mano, in sostanza. Ecco. Chiaramente, è chiaro, c'era però da parte nostra anche l'esigenza di mettere un po' i puntini sulle i, proprio perché, come dicevi giustamente tu, si tratta di rilevare qual è l'elemento di novità, e l'elemento di novità, come appunto tu stessa confermavi, sta proprio nella scelta autonoma di intraprendere un percorso. Anche perché va da sé che i sindacati nei campi di lavoro non ci sono, quindi, diciamo, non potrebbe maturare... c'è un sostegno successivo. non c'è la direzione provinciale del lavoro. Forse il paradosso è proprio questo, no? Che in situazioni in cui invece si dà per scontata un'illegalità possibile ci sia poi un'assenza di controllo possibile. Anche perché le solitudini questa volta, che subire o per via, hanno deciso di organizzarsi. Anche perché, dicevo Katia, la CGIL su un piano, se vogliamo, diciamo su scala nazionale, sta conducendo una battaglia che chiaramente si intreccia con le esperienze vertenziali a livello locale, ma che ci fa anche capire, insomma, che come al solito poi i sindacati cercano anche di condurre le loro campagne e funzionalizzare le esperienze di lotta a livello locale per campagne di carattere più generale. Intendiamoci, la campagna per, diciamo, fare in modo che il caporalato rientri come reato penale, quindi la possibilità di approvare un disegno di legge per fare in modo che appunto il caporalato sia illegale, è una campagna insomma, che chiaramente potrebbe giovare alla situazione dei migranti e dei lavoratori stagionali. Si tratta però appunto di una campagna nazionale che è condotta con tutto il tipo di strategie e di alleanze ben diverse. La CGIL è un'organizzazione così strutturata che chiaramente le zone, diciamo, le campagne e il sostegno politico a un'ingiustizia, poi diciamo la lotta al caporalato è una dei capisaldi della CGIL storicamente, certo. Quindi che faccia una campagna, insomma, mi sembra è il minimo, cioè è diversificata in ogni zona, certo, in alcune zone è possibile che la CGIL ci sia dall'inizio a seguire alcune questioni, in altre banalmente magari arriva per tempo e per prima rispetto ad altri, perché si sente abile logicamente ad esserci, insomma, e comunque insomma, è un sindacato e quindi deve essere il sindacato a questo ruolo quando, diciamo, queste cose sono scoppiate. Certo. Diciamo che insomma, può succedere che semplicemente se uno è presente sul territorio è possibile che da sola, insomma, arrivi prima delle circostanze, se non è presente sul territorio. L'Italia è grande, però la campagna è certamente una campagna utile. Beh, chiaro, quello sì, insomma. Però si tratta pure di vedere qual è come si declina a livello locale. Le questioni così districate, così complesse, possono avvenire anche attraverso il supporto, anzi devono avvenire attraverso il supporto congiunto di più forze. Di più soggetti, e da questo punto di vista ti volevo chiedere, ecco, importante chiaramente anche il ruolo del sindacato rispetto alle trattative, quantunque precisiamo la lotta è auto-organizzata. Il ruolo invece dei compagni, delle compagne, delle strutture più di movimento, anche delle brigate della solidarietà di cui ci hai parlato, è un ruolo riconosciuto? Cioè gli immigrati comunque si interfacciano con voi e hanno capito, insomma, l'importanza anche del dialogo con questa realtà? È un campo, diciamo, organizzato a monte, per cui un'associazione ha fatto presso il comune, cioè ha partecipato a un bando, ha proposto al comune di organizzare un campo attrezzato stabilmente, e con delle tende, con delle, insomma, strutture minime, perché fino a qualche anno fa gli immigrati qui, diciamo, occupavano solari abbandonati. O dei campi d'ulivo, insomma, si auto-organizzavano anche rispetto al dormire, però non avevano acqua potabile, insomma, avevano diversi disagi. Quindi c'è intanto questo progetto per un'organizzazione in questo campo. In questo progetto a fatta volontari ci sono le brigate della solidarietà, che è, diciamo, questo organismo che si è costituito a partire dal terremoto in Abruzzo, vanno in diverse zone d'Italia, c'è un gruppo di volontari organizzati che vanno, diciamo, a sostegno di alcune situazioni limite, fra cui questa. E qui si occupano, cioè si interfacciano, perché hanno fatto anche loro una campagna che si chiama Ingaggiami contro il lavoro nero, insomma, di sostegno anche di questa logica, diciamo, di emersione dall'oscurità spesso in cui si trovano i lavoratori, e senza di loro questo campo probabilmente non potrebbe esistere, perché si occupano di pulirlo, di organizzarlo, eccetera, di fornire acqua potabile, di per il cibo invece non ci sia un portafoglio dei lavoratori, perché hanno attrezzato delle cucine da campo per ciascuna comunità. Benissimo, benissimo. Katia, sei stata gentile, esauriente, ci hai raccontato molto, insomma, della lotta condotta da questi coraggiosi lavoratori migranti che si trovano a Nardò, alla masseria Boncuri. Speriamo, insomma, che la lotta non sia condotta invano, nel senso che si riesca a trovare una soluzione, e per noi la soluzione non può che coincidere con il ripristino, diciamo, di tutte quante le garanzie sul lavoro, anche per questi migranti, anche per questi lavoratori, insomma. Va bene, al momento noi ci salutiamo, ci risentiamo nei prossimi giorni, teniamoci in contatto. Ok, d'accordo. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.